dipende se vuoi vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se vogliamo vederlo mezzo pieno, le decisioni del governo hanno indubbiamente tenuto conto del fatto che il passaggio di quelle navi in bacino di San Marco era totalmente inaccettabile, fuori scala con la città, e hanno cercato di affrontare il tema, no? Poi nella sostanza lo hanno affrontato in un modo molto mediatico e direi poco di sostanza, no? Perché se dovessimo venire invece cioè se dovessimo guardare il bicchiere dal punto di vista del mezzo vuoto, allora le decisioni che hanno preso quali sono? Sono il mantenimento della marittima quale terminal crocieristico nel cuore della città, il fatto che si raggiunge la marittima attraverso lo scavo del canale Contorta Sant'Angelo, che è un piccolo canale naturale che verrà trasformato in una sorta di autostrada del mare, dando secondo noi il colpo di grazia a una laguna già abbondantemente ferita, e poi introducendo per sovramercato una sorta di orizzonte nel quale si prevede anche un secondo terminal crocieristico a Porto Marghera, no? Quindi diciamo che si prevede comunque che ci sia uno sviluppo del crocierismo a Venezia, per quanto, diciamo così, con navi apparentemente più piccole di quelle che arrivano adesso, no? E quando dico apparentemente, spiego perché tolgono via i mostri, i super mostri, non so, la MSC Divina, alcune navi della costa che superano abbondantemente le 100, le 120, addirittura le 133.000 tonnellate di stazza lorda, ma il limite che hanno definito per estromettere dal bacino di San Marco dall'anno prossimo, cioè da novembre dell'anno prossimo, è 96.000 tonnellate, che è un limite comunque altissimo. Cioè, per dare un ordine di idee, lo ripetiamo sempre, il Titanic era 46.000 tonnellate, no? quindi questo limite di 96.000 tonnellate è più che doppio del Titanic. Fino a oggi, per quanto inattuato, il decreto Clini Passera adottato dopo la tragedia del Giglio voleva estromettere dal bacino di San Marco le navi oltre le 40.000 tonnellate, no? Cioè, quindi su di un limite di 40.000 tonnellate che già non si sa come fosse stato definito, quest'anno hanno più che raddoppiato. Ecco, allora il tema è che noi la battaglia dobbiamo continuarla per forza di cose, per estromettere anche queste navi da 96.000 tonnellate dal bacino di San Marco, e per impedire che per farlo si devasti ulteriormente la laguna. Cioè, sotto un certo profilo siamo esattamente nella situazione dell'anno scorso, cioè per quanto con cifre, con numeri un po' diversi, ma sostanzialmente nella stessa situazione dell'anno scorso. Cioè navi troppo grandi che passano nel cuore della città, e il rischio che le soluzioni per estrometterle siano in un qualche modo più dannose del male stesso, perché è indubbio che la nave a San Marco è totalmente fuori scala, fuori luogo, non serve spendere parole. Forse è più difficile far capire per un non veneziano cosa significa una di quelle navi all'interno della laguna. Cioè, per noi la laguna è un bene di per sé, è un bene ambientale, ma è anche un bene storico e culturale, è una stratificazione di saperi. Le prime magistrature ambientali al mondo e le prime leggi ambientali al mondo sono nate a Venezia per tutelare la laguna, no? Quindi insomma, considerarla come alla stregua di un campo di patate, no? Dove puoi fare qualsiasi cosa, scavare, buttare terra, aprire canali, toglierli, eccetera, è una logica che noi non possiamo accettare. Insomma, quindi l'attività del comitato e le lotte andranno avanti. Ecco, ti chiedo questo, certo, perché lontano da Venezia, appunto, uno legge i giornali e dice: beh, è stato un trionfo. Insomma, non entrano neanche i gozzi più a San Marco, non è proprio così. Appunto, invece, capisci, 96.000 tonnellate, se vuol dire navi da 300 metri, comunque da 14-15 ponti, sì, hanno dato una spuntatina ai capelli, insomma, ecco, non so come altro dire. Noi continueremo senz'altro, sicuramente adesso questo progetto di scavo del canale deve passare attraverso il vaglio della valutazione di impatto ambientale, quindi nell'ambito di quella procedura faremo la nostra battaglia e vedremo, adesso non lo sappiamo, ma lo faremo senz'altro, faremo tutte le battaglie giuridiche, amministrative, legali possibili e immaginabili a seconda delle forme nelle quali l'accordo dell'altro giorno verrà tradotto in atti amministrativi, giuridici e amministrativi. Va benissimo. Il comitato continua, insomma. Ecco, no, questo era, diciamo, anche quello più incazzati di prima. che ci premeva di sapere, appunto, se la situazione fosse, se non risolta, ma insomma comunque in qualche modo avviata a una conclusione positiva, o se ma, invece, diciamo, come posso dire, è stato riconosciuto che il problema c'è, no? Non hanno potuto fingere che il problema non ci fosse, no? Fino a ieri molti dicevano è solo un problema estetico, no? Adesso questo non lo dice più nessuno, non lo possono più dire. Hanno riconosciuto che il gigantismo è il problema, cioè che non è il crocierismo il problema. Per noi un crocierismo compatibile con la città e sostenibile è il benvenuto, no? È il gigantismo, cioè è una rincorsa a modelli di gestione di questa fabbrica che è la nave da crociera, che fa gli interessi solo del padronato, insomma, se dobbiamo tradurla in termini, certo, di sindacato e di, no, bisogna ricondurre la gestione di questa fabbrica a modelli di sostenibilità, esattamente come si fa per qualsiasi fabbrica in giro per l'Italia o che lavori nei pressi di aree urbanizzate. Sì, anche perché poi in Italia fabbriche con il numero di lavoratori e lavoratrici impegnati in una nave di crociera non è che ce ne siano poi tantissimi, insomma, quindi stiamo parlando, no, poi di... Sai, i numeri sono poco noti, nessuno sa esattamente come stiano le cose. Tutte le decisioni sono state prese sulla base di criteri sconosciuti. Voglio dire, se il problema del decreto Clini Passera dell'anno scorso era il rischio che la città corre, nessuno ha spiegato perché sopra le 40.000 tonnellate c'è il rischio e sotto le 40.000 tonnellate non c'è più. E a maggior ragione quest'anno nessuno ci spiegherà perché questo limite delle 40.000 tonnellate è diventato 96.000, cioè c'è un rischio o non c'è un rischio? E quindi se c'è, visto che fate un decreto, perché avete scelto quel limite e poi l'anno dopo lo avete raddoppiato? In base a quali criteri di sicurezza? Questo non lo spiega nessuno. Gli interrogativi sono ancora tutti sul piatto. Gli interrogativi sono ancora tutti aperti, ecco, da questo punto di vista. Va bene, Silvio, ti ringraziamo, e facciamo il nostro in bocca al lupo. E grazie, quindi mille. Immagino ci sentiremo ancora prossimamente. Sì, ecco, sì, una storia che non finisce qui. Siamo qua a presidiare il bidone, non ce lo facciamo scippare da sotto il naso. Va benissimo. Va bene. A presto, allora, un saluto.